Terzo Anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alba Rohrwacher legge Il Mago di Oz di Frank Baum. Traduzione di Sara Sollors. I quattro viandanti andarono verso il gran cancello della città smeralda e suonarono. Dopo aver suonato un paio di volte, gli aprì lo stesso guardiano dei cancelli che avevano già incontrato. «Cosa? Siete già tornati?» domandò, sorpreso. «Non ci hai visto?» rispose lo spaventapasseri. «Ma pensavo che foste andati per visitare la perfida strega dell'Ovest. Infatti ci siamo andati», disse lo spaventapasseri. «E vi ha lasciato andare via?» domandò l'uomo meravigliato. «Non poteva farci niente, perché si era sciolta», spiegò lo spaventapasseri. «Sciolta! Beh, questa sì che è una buona notizia», disse l'uomo. «E chi l'ha sciolta?» «È stata Dorothy», disse serio il leone. «Santo cielo!» esclamò l'uomo e le fece un inchino assai profondo. Poi li portò nel suo stanzino e chiuse loro dietro la testa gli occhiali dello scatolone, come aveva fatto la volta precedente. Quindi attraversarono il cancello ed entrarono nella città smeralda. Mano a mano che la gente sentiva dire dal guardiano dei cancelli che avevano sciolto la perfida strega dell'Ovest, tutti si accodavano ai viandanti e li seguivano in massa al palazzo di Oz. Il soldato dai baffi verdi era ancora di guardia alla porta, ma li fece entrare immediatamente, e ancora una volta venne loro incontro la bella ragazza verde e li guidò subito alle loro vecchie stanze per farli riposare finché Oz non fosse stato pronto a riceverli. Il soldato era andato subito da Oz a dirgli che Dorothy e gli altri viandanti erano tornati, dopo aver distrutto la perfida strega. Ma Oz non gli rispose. Pensavano che il grande mago li avrebbe ricevuti subito, ma non lo fece. Non si fece vivo il giorno seguente, né quello successivo, né quello dopo ancora. L'attesa era lunga e stancante, e dopo un po' se la presero per il modo meschino con cui venivano trattati da Oz, dopo che li aveva mandati ad affrontare insidie e schiavitù. Così lo spaventapasseri si decise di chiedere alla ragazza verde di portare un altro messaggio ad Oz, dicendo che se non li avesse ricevuti immediatamente, avrebbero chiamato il loro aiuto le scimmie alate e avrebbero scoperto se manteneva o meno le promesse. Quando questo messaggio gli fu riferito, il mago prese una tale paura che comandò di dire loro di presentarsi nella sala del trono alle 9:04 del mattino seguente. Aveva già incontrato una volta le scimmie alate nel paese dell'Ovest e non desiderava ripetere l'esperienza. Viandanti passarono una notte insonne, ognuno pensava al dono promessogli da Oz. Dorothy dormì solo un poco e sognò di essere in Kansas, dove la zia Em le diceva quanto fosse felice di riaverla a casa. Precisamente alle 9 del mattino seguente, il soldato dai baffi verdi venne da loro e 4 minuti dopo entrarono tutti nella sala del trono del grande Oz. Ovviamente ognuno si aspettava di vedere il mago nella sembianza presa precedentemente e furono molto sorpresi quando si guardarono attorno e non videro nessuno nella stanza. Rimasero vicini alla porta e ancora più vicini l'uno all'altro, perché la calma della stanza vuota faceva più paura di qualsiasi forma presa da Oz. Dopo poco sentirono una voce solenne che sembrava provenire dalla cima della cupola e che diceva: «Sono Oz, il grande e il terribile. Perché mi avete cercato?» Si guardarono intorno e poi, non vedendo nessuno, Dorothy domandò: «Dove sei?» «Sono ovunque», rispose la voce, «ma gli occhi dei comuni mortali sono invisibili. Mi siederò sul trono per permettervi di conversare con me». In effetti la voce sembrò allora provenire dal trono stesso. Così si avvicinarono e si misero in fila e Dorothy disse: «Siamo venuti per chiederti di mantenere la tua promessa, Oz». «Quale promessa?» domandò Oz. «Hai promesso di rimandarmi in Kansas una volta distrutta la perfida strega», disse la ragazzina. «E hai promesso di darmi un cervello», disse lo spaventapasseri. «E hai promesso di darmi un cuore», disse l'uomo di latta. «E hai promesso di darmi del coraggio», disse il leone fifone. «La perfida strega dell'Ovest è stata veramente distrutta?» domandò la voce, e a Dorothy sembrò di sentirla tremare. «Sì», rispose lei, «l'ho sciolta con una secchiata d'acqua». «Santo cielo!» disse la voce. «Che sorpresa! Beh, venite domani perché devo avere tempo per riflettere». «Hai già avuto un sacco di tempo», disse arrabbiato l'uomo di latta. «Non attenderemo un altro giorno», disse lo spaventapasseri. «Devi mantenere la tua promessa», esclamò Dorothy. Il leone pensò che fosse una buona idea spaventare il mago. Così ruggì forte, in maniera talmente feroce e terribile che Toto, allarmato, si allontanò da lui con un balzo e fece cadere un paravento che stava in un angolo. Guardarono tutti in quella direzione e rimasero a bocca aperta, perché videro, in piedi, nel posto che il paravento aveva nascosto allo sguardo, un vecchietto, calvo e con la faccia rugosa, che sembrava sorpreso almeno quanto loro. L'uomo di latta, alzando l'ascia, corse verso l'omino e gli gridò: «Chi sei?» «Sono Oz, il grande e il terribile», disse l'omino con una voce tremante. «Ma non colpirmi, per favore, non farlo, e farò tutto quello che volete». I nostri amici lo guardarono sorpresi e sconcertati. «Pensavo che Oz fosse una grande testa», disse Dorothy. «E io che Oz fosse una bella donna», disse lo spaventapasseri. «E io pensavo che Oz fosse una bestia terribile», disse l'uomo di latta. «E io pensavo che Oz fosse una palla di fuoco», esclamò il leone. «No, vi siete tutti sbagliati», disse debolmente l'omino. «Stavo solo facendo finta». I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. «Facendo finta?» urlò Dorothy. «Non sei un grande mago?» «Shh, parla piano, mia cara», disse. «Se parli così forte ti sentiranno e io sarei rovinato. Dovrei essere un grande mago». «E non lo sei?» domandò lei. «Nemmeno un pochino, mia cara. Sono solo un comune mortale.» «Sei più di quello», disse lo spaventapasseri con voce luttuosa. «Sei un impostore.» «Esattamente», dichiarò l'omino fregandosi le mani come se gli facesse piacere. «Sono un impostore.» «Ma tutto ciò è terribile», disse l'uomo di latta. «Come farò adesso ad ottenere un cuore?» «E io il mio coraggio?» chiese il leone. «E io il mio cervello?» esclamò disperato lo spaventapasseri, asciugandosi le lacrime con la manica della giacca. «Miei cari amici», disse Oz, «vi prego di non parlare di queste cose. Pensate a me e ai guai che passerei se venissi scoperto.» «Nessun altro sa che sei un impostore?» domandò Dorothy. «Nessuno oltre a voi quattro e a me», rispose Oz. «Ho ingannato tutti per così tanto tempo da pensare che non sarei mai stato scoperto. È stato un errore ammettervi nella sala del trono. Normalmente non ricevo nemmeno i miei sudditi, così credono che io sia qualcosa di terribile.» «Ma non capisco», disse Dorothy perplessa. «Come hai fatto a farti vedere come una grande testa?» «È uno dei miei trucchi», rispose Oz. «Seguitemi, per favore, e vi racconterò tutto.» Seguirono in una piccola stanza sul retro della sala del trono. Indicò un angolo in cui giaceva una grande testa fatta da molti strati di carta e con una faccia meticolosamente dipinta. «Era appesa al soffitto con un fil di ferro», disse Oz. «Io rimanevo dietro il paravento e tiravo il filo per far muovere gli occhi e aprire la bocca.» «E la voce?» indagò Dorothy. «Oh, sono ventriloquo», disse l'omino. «So far sentire la mia voce ovunque desidero, e così tu pensavi che provenisse dalla testa. Ecco qui le altre cose usate per ingannarvi.» Fece vedere allo spaventapasseri il vestito e la maschera indossati per sembrare una bella donna. E l'uomo di latta vide che la sua bestia terribile altro non era che tante pelli d'animale intrecciate e cucite insieme. Per quanto riguarda la palla di fuoco, il finto mago aveva appeso anche quella al soffitto. In realtà era una palla di cotone che bruciava intensamente quando ci si versava sopra dell'olio. «Veramente», disse lo spaventapasseri, «dovresti vergognarti di essere un tale impostore.» «Mi vergogno, sicuro che mi vergogno», rispose dispiaciuto l'omino. «Ma era l'unica cosa che sapessi fare. Sedetevi per piacere, ci sono sedie a sufficienza e vi racconterò la mia storia.» Così si sedettero e ascoltarono la seguente storia. «Sono nato a Omaha, ma è vicino al Kansas», urlò Dorothy. «No, ma è lontano da qui», disse, scuotendo tristemente il capo. «Quando crebbi divenni un ventriloquo e feci l'apprendista da un grande maestro. So imitare ogni tipo di uccello o di bestia». A questo punto miagolò proprio come un gattino e Toto, rizzando le orecchie, si mise a cercarlo dappertutto. Dopo un po' mi stufai e divenni un mongolfierista. «E che cos'è?» domandò Dorothy. «Un uomo che il giorno della fiera va in mongolfiera per fare pubblicità al circo, così che la gente poi compra il biglietto», spiegò lui. «Oh», disse lei, «ho capito». «Beh, un giorno ero in mongolfiera e le corde si ingarbugliarono e non potei più scendere. La mongolfiera salì oltre le nuvole talmente in alto che una corrente d'aria la trasportò a molte, molte miglia di distanza. Viaggiai nel cielo per un giorno e una notte, e il mattino del secondo giorno, quando mi svegliai, mi trovai a sorvolare uno strano e bellissimo paese. La mongolfiera toccò terra dolcemente e non mi fece affatto male. Ma mi ritrovai fra della gente dall'aspetto strano che, vedendomi scendere dalle nuvole, pensò che fossi un grande mago. Naturalmente glielo lasciai credere perché mi temevano e mi promisero di fare qualsiasi cosa gli avessi chiesto. Soltanto per divertirmi e per tenerli occupati, gli ordinai di costruire questa città e il mio palazzo, e lo fecero bene e volentieri. Poi pensai, dato che il paese era così verde e bello, di chiamarlo Città Smeralda. E per rendere più adatto il nome, misi a tutti gli abitanti degli occhiali verdi, per far sembrare verde tutto ciò che vedevano. «Ma non è tutto verde qui?» domandò Dorothy. «No, no, non più che in qualsiasi altra città», rispose Oz. «Ma quando si indossano gli occhiali verdi, è ovvio che tutto sembri verde». «La città Smeralda fu costruita molti anni fa. Ero un giovanotto quando la mongolfiera mi portò qui e sono molto vecchio adesso. Ma il mio popolo ha portato gli occhiali verdi per talmente tanto tempo che la maggior parte pensa che sia veramente una città smeralda. Ed è sicuramente un bellissimo posto, con un'abbondanza di gioielli e pietre preziose e ogni cosa necessaria per essere felici. Sono stato buono con il popolo e loro mi vogliono bene. Da quando è stato costruito questo palazzo, però, mi ci sono rinchiuso e non ho più ricevuto nessuno. Uno dei miei peggiori timori erano le streghe, perché mentre io non avevo uno straccio di poteri magici, mi resi conto che le streghe potevano veramente fare cose meravigliose. Ce n'erano quattro in questo paese e regnavano sui popoli che abitavano nel nord, nel sud, e nell'est e nell'ovest. Fortunatamente le streghe del nord e del sud erano buone e sapevo che non mi avrebbero mai fatto del male. Ma le streghe dell'est e dell'ovest erano terribilmente cattive e se non avessero creduto che avessi più potere di loro mi avrebbero distrutto. Stando così le cose, passai molti anni nel terrore. Quindi puoi immaginarti la mia gioia quando ho sentito che la tua casa era caduta sulla perfida strega dell'est. Quando venisti da me, ero disposto a prometterti qualsiasi cosa se fossi riuscita ad eliminare anche l'altra strega. Ma adesso che l'hai sciolta, mi vergogno a confessare che non posso mantenere le mie promesse. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses, they tell me, in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Penso che tu sia un uomo molto cattivo, disse Dorothy. Oh no, mia cara. In realtà sono un gran brav'uomo, ma sono un pessimo mago, devo ammetterlo. Non mi puoi dare un cervello? Domandò lo spaventapasseri. Non ne hai bisogno. Impari qualcosa tutti i giorni. Un neonato ha un cervello, ma non sa quasi nulla. Solo l'esperienza porta la conoscenza e più tempo rimani sulla terra, più esperienza avrai. Anche se è tutto vero, disse lo spaventapasseri, sarò molto infelice se non mi darai un cervello. Il finto mago lo guardò attentamente. Disse con un sospiro, non sono un grande prestigiatore come ti ho già detto, ma se vieni da me domani mattina ti metterò un cervello in testa. Non posso dirti come usarlo, però devi scoprirlo da solo. Oh, grazie, grazie, esclamò lo spaventapasseri. Troverò un modo per usarlo, non temere. E il mio coraggio? Chiese ansioso il leone. Hai un'abbondanza di coraggio, ne sono certo, rispose Oz. Hai solo bisogno di un po' più di fiducia in te stesso. Non c'è essere vivente che non abbia paura davanti a un pericolo. E il vero coraggio si dimostra affrontando i pericoli quando si ha paura. E di questo tipo di coraggio ne ha in abbondanza. Può darsi, ma ho paura lo stesso, disse il leone. Sarò veramente infelice se non mi darai il tipo di coraggio che fa dimenticare di avere paura. Va bene. Ti darò quel tipo di coraggio domani, rispose Oz. Il mio cuore? Domandò l'uomo di latta. Per quanto riguarda il cuore, rispose Oz, secondo me sbagli a volerne uno. Rende infelice la maggior parte della gente. Tu non sai quanto sei fortunato a non avere un cuore. Deve essere una questione di opinione, disse l'uomo di latta. Io sopporterò l'infelicità senza lamentarmi, se mi darai un cuore. Va bene, rispose Oz debolmente. Vieni da me domani e avrai un cuore. Ho fatto finta di essere un mago per tutti questi anni e posso tranquillamente farlo per un altro po' di tempo. dunque, disse Dorothy, come faccio a tornare in Kansas? Ci dovrò pensare, rispose l'omino. Dammi 2 o 3 giorni per rifletterci e troverò un modo per farti attraversare il deserto. Nel frattempo sarete miei ospiti e, mentre vivrete a palazzo, il mio popolo sarà al vostro servizio ed esaudirà ogni vostro desiderio. Vi chiedo un unico favore in cambio del mio aiuto. Dovete mantenere il mio segreto e non dovete dire a nessuno che sono un impostore. Promisero di non rivelare quello che sapevano. Persino Dorothy sperava che il grande e terribile impostore, come lo chiamava lei, avrebbe trovato un modo per rimandarla in Kansas. In quel caso era disposta a perdonargli tutto. Alba Rohrwacher ha letto Il Mago di Oz di Frank Baum. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.